Dialog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La pugnalata di una donna tradita, si sa, è più dura della spada di un guerriero. Valérie Trévaillet, nel suo libro Choc su François Hollande, in uscita in queste ore, colpisce forte il suo presidente. Già nel titolo, Merci pour ce moment, grazie per questo momento, c'è tutto l'astio accumulato in 18 mesi, trascorsi all'Eliseo e finiti con le scappatelle del presidente che in scooter raggiungeva di nascosto la sua amante, l'attrice Julie Gayet. Un uomo bugiardo e volgare, scrive la giornalista, così classista e snob, l'uomo della gauche, da chiamare i poveri sdentati, racconta ancora la Trévaillet nella sua cronaca irriverente. Insomma, un politico che ha basato la sua campagna elettorale sui problemi dei meno fortunati per poi prenderli in giro tra le porcellane e gli argenti del palazzo, secondo la donna che ricorda come con il potere Hollande era diventato cinico e maschilista. Ci metti tanto a farti bella, chiedeva alla compagna, un po' rispondeva lei, e lui gelido, d'altronde questo devi fare. Altro che fiori e frasi appassionate. Per riprendersi la compagna, lasciata con poche righe affidate a un'agenzia di stampa, Hollande avrebbe mandato una bella storiaccia, vabbè che la Trévaillet è una giornalista e quindi naturalmente ha la penna come arma a disposizione. Ma il contesto, se lo estrapoliamo dalla storia presidenziale, che forse alle nostre latitudini importa poco a qualcuno, è paradigmatica di un atteggiamento della donna tradita, della donna vilipesa. Valérie Trévaillet era la quasi première dame quando a un certo punto Hollande cominciò a girare col motorino nottetempo, andando a fare cosucce con un'altra ragazza anche abbastanza avvenente, con la guardia del corpo che gli portava i cornetti la mattina. Insomma, una cosa veramente ridicola. Ridicola però, essendo lui coevo e quindi della mia stessa età, c'era da brindare alla gloria dell'uomo che riuscì a mantenere plurime relazioni amorose. Finita la storia, è rientrato tutto comunque nella noia neghittosa del già sentito, già detto. Esce oggi questo libro fantastico che sputtana Hollande fino alla radice dei capelli. Non lo sputtana secondo i classici canoni dell'ars sputtanatoria delle donne tradite, che subito mettono in luce le scarse qualità amorose, le microscopiche dimensioni virili e cose del genere. No, lo sputtana su un piano politico, in realtà molto più sottile, molto più potente. Lui, uomo, diciamo, illuminato di sinistra, in realtà aveva un disprezzo per i poveri terribili. Al di sotto dei 4.000 euro si veniva considerati poveri, 4.000 euro netti mensili, al di sopra in su si poteva ragionare. Lo invitò una volta lei a Natale a cena con tutta la famiglia e rideva come se fossero dei poveracci, dei morti di fame. La prendeva in giro per le sue origini non certo ricchissime, soprattutto chiamava i poveri senza denti, gli sdentati, perché è sintomatico nel disprezzo di un uomo che veramente ha una sorta di schifo per le persone umili, il fatto che una persona che non ha possibilità economiche per aggiustarsi i denti, a un certo punto si vede il primo segno dell'indigenza, è il fatto che le persone hanno i denti in disordine perché sono le cose costano di più. In Grecia uno dei primi terrificanti segni della crisi è che nessuno più portava i bambini a fare i controlli dei denti, quindi qualcosa che ti colpisce nel profondo l'anima su questo, molto di più che sapere che poi Hollande è scarso dal punto di vista amoroso, chi se ne importa, però questo gli dispiace molto. Infatti lui la riempie di sms ogni giorno perché vuole recuperare il contatto, perché vuole naturalmente rimettersi un attimo in linea per evitare il disastro politico. Ma quello che vorrei sapere oggi dal nostro pubblico è quanto voi avete praticato, avete subito lo sputtanamento amoroso. Lo sputtanamento amoroso è terrificante, è radicale, devastante e assolutamente non lascia crescere erba dove passa, quando è una donna tradita, una donna vilipesa a metterlo in atto. A questo punto è qualcosa che è appoggiato sul clamore della notorietà, ma ci sono anche delle forme molto più semplici, molto più immediate, molto più alla portata di tutti di sputtanamento amoroso. L'avete mai messa in atto o l'avete mai subita? 800 24 0024. Marianna Aprile, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Giornalista del settimanale Oggi, fantastica conduttrice, in assoluto la migliore, anche la più avvenente dal punto di vista fisico, nonostante è anche assolutamente quella che più ha dimostrato originalità nella trasmissione Millennium condotta da tre ragazzi. Vuoi far litigare ora che è finita, dai, no? Eh sì, lo faccio apposta, certo. Senti, Marianna, questa è proprio materia tua, è roba tua. Allora, intanto un commento sulla questione Hollande, ma la signora, sai, la trovo un po' meschinetta la cosa, perché ci ha vissuto 20 anni, si faceva tanto schifo, sarà tanto orribile, la trattava tanto di peste, che c'è stata a fare? Evidentemente aveva il suo tornaconto. No, soprattutto anche la relazione tra i due era cominciata in modo non proprio... Lei stava con un altro, stava... Illegittimo e trasparente, quindi diciamo chi è senza peccato scagli il primo libro di retroscena. No, io sono rimasta colpita dal fatto che ci abbia messo 8 mesi a scriverlo, nel senso, essendo una giornalista e anche di pari marcia, lo ricordiamo, e anche non di seconda fila, insomma, una che il suo mestiere l'ha sempre saputo fare, avrebbe dovuto cogliere al volo l'occasione di dare alle stampe queste memorie e non far passare si scrive di getto, poi certe mesi. Cose se esatto. C'è un groppo in gola ci metti una settimana, esatto, a il fatto che ci abbia messo così tanto è a mio avviso una delle prove del fatto che ha negoziato, trattasi di vendetta o ha negoziato, ha detto ti sputtano e ha sposto qualcosa oltre le corna, insomma. E quindi no, cioè è se vogliamo è anche un genere letterario e giornalistico quello delle confessioni, no? Dell'ex moglie tradita e non, o rancorosa più genericamente, cioè noi, diciamo, per citare un altro libro di Maria Latella di molti anni fa, è Tendenza Veronica dalle nostre parti, no? Ricordiamo tutti che insomma 5 anni fa Veronica Lario, quando decise di far calare il sipario, parole sue, sul matrimonio ventennale con Berlusconi, lo fece attraverso un giornale. Peraltro un giornale che mai sì, ma fu molto limitata la cosa. Scrivere un libro è un'operazione ben più capillare, dire una battuta, ma sai, è un po' rincoglionito con le ragazzine, è qualcosa che così passa. Ma non era propriamente una battuta. Veronica, in quelle pochissime parole, che poi pochissime non erano, insomma, una paginata su Repubblica, descrisse un sistema che è emerso poi attraverso anche inchieste giudiziarie negli anni successivi, le vergini che si offrono al drago per il potere, cioè svelava, apriva, squarciava un velo su un dietro le quinte che aveva oltre che un valore privato anche un valore politico, esattamente come le parole di Valéry nel libro, cioè il presidente francese che chiama sventati gli indigenti è, oltre che una carognata detta dall'ex, è una frase che ha, è un retroscena che ha un valore politico altissimo. Totale, distrutto, non diventa più credibile, anche perché come si fa a dire non è vero che dicevo gli sdentati? Uno come fa a inventarsi una cosa del genere? No, se l'ha inventata, chapeau. Allora, Gianetto Regassani, buongiorno, fermo un attimo. Buongiorno. Gianetto Regassani, presidente Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani, autore di un classico, I Perplessi Sposi, che ha una ricchissima trattatistica di sputtanamenti amorosi. Innanzitutto, da un punto di vista legale, si può fare questo, Gianetto? No, non si può fare, io non ho letto il libro, ma ovviamente esiste ancora la diffamazione sia in Francia che in Italia, quindi bisogna vedere poi quali sono i contenuti di questo libro, si valuteranno eventualmente i legali. Poi in questo caso, diciamo, denunciare è allargare ancora più a macchia d'olio, portarla sui tribunali, discutere, vengono i giornalisti. Sì, certamente, ma non credo che a questi livelli Hollande possa scrivere un altro libro di replica, e a quel punto... per evitare delle strumentalizzazioni di carattere politico, senza voler entrare nel merito se è vero o no quello che dice la moglie, a parte il fatto che io onestamente abborro questo tipo di sistemi. Ma non entra nella sfera intima, devo dire, da quello che sono le anticipazioni e le anticipazioni. Si tratta di un movente chiaro, una donna che chiaramente ha sofferto per una certa situazione e che quindi probabilmente cerca di prendersi una rivincita in questo modo. Io che sono un matrimonialista e che mi occupo quindi di fasi patologiche del matrimonio, di gente che si lascia, ho sempre ritenuto che gli assistiti che difendo non devono permettersi di usare ma anche con me una terminologia offensiva e demolitiva. Perché questo accade, normalmente accade. È la fine di tutto, veramente. Ecco, i sistemi diciamo più pop per lo sputtanamento amoroso, non tutti sono giornalisti di pari match, non tutti hanno possibilità di parlare del primo cittadino della Francia e via dicendo, ma nella sfera individuale, personale, hai avuto momenti in cui hai dovuto gestire cose del genere, però su livelli naturalmente più casalinghi? Assolutamente sì. Assolutamente sì, per esempio i social network stanno diventando una sorta di vetrina dei fatti personali, si stendono i panni sporchi sui social network, per lui che viene lasciato da lei o viceversa manifestano tutto il loro disprezzo, a volte anche facendo nome e cognome oppure dei riferimenti che riconducono all'identità della persona. Abbiamo anche dei processi penali pendenti, abbiamo una serie di iniziative, la Cassazione si sta muovendo, cioè ormai farsi del male quando ci si lascia è normale, o ci si ammazza, perché purtroppo c'è anche la violenza fisica, o ci si ammazza dal punto di vista del sociale, cioè c'è la morte civile di persone che devono essere bannate da tutti, considerati infami, e c'è questa ansia di vendetta nei confronti dell'ex. Io trovo questa cosa veramente pericolosa, perché non si arriva poi da parte. Anche perché diciamo ciò chiaro, Gianetto, che tu la tratti da un punto di vista squisitamente giuridico, la vedo più da un punto di vista, diciamo, umano. Deve stare in conto che un rapporto amoroso può avere la fine. La fine non è che da un giorno all'altro uno dice dai, da oggi non ci stiamo più assieme. È chiaro, c'è una fase di sfumata in cui qualcuno guarda qualcun altro con occhio diverso. Questo sta nelle cose. Puoi farne una tragedia e dire un infame perché mi ha lasciato. Uno deve sempre mettere in conto che questo possa accadere. Giorgio, sì. Giorgio, no, buongiorno. Buongiorno. Sì. Buongiorno, dottor Nicoletti. Niente, ha subito. Volevo dare il mio contributo riguardo lo sputtanamento amoroso. Esatto, riguardo lo sputtanamento amoroso. Siccome da ragazzino, per l'educazione impartita dalla mamma, eccetera, eccetera, avevo un atteggiamento molto rispettoso verso le ragazzine, eccetera, molto perbenino, eccetera. Allora poi a un certo punto mi sono reso conto che venivo sputtanato per questo, perché non osavo più di tanto, perché ero molto preciso, eccetera. E poi una volta venuto a conoscenza di questo, ecco, ha cominciato a farlo, sono diventato il contrario, cioè ha cominciato a picchiare le donne, no? Picchiare assolutamente no, essere molto menefreghista, essere molto... Ah, capito, il vero segreto della seduzione, essere sempre da un'altra parte, vabbè. Esatto, niente. Però nessuno, quello però è uno sputtanamento preventivo, è un ragazzino per benino e tutti dicono guarda quello scemo lì che nemmeno ci salta addosso. Questo sinceramente mi ha anche segnato molto, però mi sono molto ripreso ma questo suo essere, diciamo, poi intraprendente, sì, mi ha fatto mai pagare duramente sul piano dello sputtanamento, che alla fine quando esagerava andava oltre, poi l'ha pagata oppure è andata no, sempre? No, cioè a volte può darsi sì, ma non me ne è fregato più di tanto, ecco, sinceramente. Quindi se lei una sua ex scrivesse un libro dicendo, come mi scrive sull'SMS un ascoltatore, e il meglio è dire che durava quanto un battito di ciglia, che usava Viagra e ce l'aveva come quello di un bimbo di 5 anni. Anche se non è vero, lei se la prenderebbe? Non me la prenderei, perché le verità sarebbero ben altre, però insomma se fosse vero, certo, se fosse vero fa parte della realtà e bisogna accettare. E quindi uno accetta quello che passa al convento. Ci fermiamo un istante, tra un istante, con Marianna Aprile e l'avvocato Cassani. 0024 stiamo parlando del nuovo libro, probabile bestseller, di Valérie Trivaillé, ex donna del presidente Hollande. Grazie per questo momento, presa in giro totale, che mette in pessima luce da un punto di vista politico il presidente Hollande. Stiamo parlando del fatto che in realtà lo sputtanamento amoroso siano le armi, quelle potenti di una nota e titolata giornalista, o siano quelle di una qualsiasi madre di famiglia, è uno strumento potente e spesso usato. Mi aspettavo una reazione più vivace dal nostro pubblico, ma al solito si nascondono sotto l'aura del soffritto. A quest'ora le signore non hanno il coraggio di dire quella che è la loro realtà. E io con Marianna Aprile, allora giornalista di oggi, comincio in realtà a fare un po' di storia di quelle che sono state le più note tecniche di sputtanamento amoroso nel mondo, comunque delle persone più conosciute, che sono quelle di cui sappiamo qualcosa, degli altri sappiamo relativamente, perlomeno sappiamo se conosciamo una persona colpita su un social network, come diceva l'avvocato Cassani. Marianna. Beh sì, i social network hanno un po' appiattito anche le distanze, no? Tra le possibilità di essere sputtanati tra VIP e gente comune. E anche del potenziato fatto, lo sputtanamento. Quello che accade sui social network poi alla fine è molto relativizzato, c'è una tal pletora di troll, di buffoni, di chiacchieroni, di spacconi, che alla fine colpisce fino a un certo punto, no, mi pare. Beh, insomma, basta una foto, per... la foto sì, la foto pesa. Però al di là di questo, cioè le tecniche, tornando ai personaggi noti, le tecniche sono collaudatissime e anche abbastanza utilizzate. Una delle più diffuse specie nei paesi anglosassoni, insomma dai VIP di americani eccetera, è quella della diffusione post fine del rapporto di video, foto eccetera a sfondo erotico sessuale. Cioè, parte, l'ultima infornata di star hollywoodiane o simili, quello è capitato, diciamo, quello è stato un incidente tecnico, se l'è messa da solo, quelli dolosi, per cui capito il video, il filmino, oppure pensiamo in casa nostra quello che accade alla povera Belen quando il suo ex fidanzato mise in giro il famoso porno amatoriale. Sì, una piccola pompa di gioventù, niente di male, però poco più che ragazzina. In realtà molto più frequentemente succede un altro genere di cose. Ci sono alcuni personaggi che magari hanno rapporti privilegiati con paparazzi, fotografi, amici eccetera, che semplicemente segnalano all'amico fotografo data, luogo, ora di incontri propri o del fedifero per far venire fuori il bubbone e magari usarlo dal punto di vista legale. Ma chi è che si è fatto male veramente negli ultimi anni? Non tante persone di sputtanamento amoroso, proprio male che gli è successo qualcosa di difficile da gestire. Alla fine finisce tutto a tarallucce vino, mi pare. Beh, insomma, in alcuni casi non farò nomi, sennò poi la querela me la becco io, perché loro si sono messi d'accordo alla fine, quindi non si sono querelati, però c'è stato un famoso divorzio durante il quale ci fu anche una evidente e palese violazione della posta privata di uno dei due che finì sui giornali. E lì, insomma, l'avvocato è più titolato di me a parlarne, ma lì, insomma, siamo al di là della ripicca, siamo al reato. In realtà molto più spesso ci sono le interviste come quella dell'ex deputato di FLI, Italo Bocchino, cioè un'intervista dell'ex moglie che confermava un gossip che andava avanti da mesi su una relazione extraconiugale del marito, la lettera di Veronica di cui abbiamo parlato, ma anche c'è una deriva familistica in questi ultimi tempi, perché poche settimane fa, lo ricorderete, c'è stata una questione che ha monopolizzato siti e giornali. In una fiction, diciamo, letteraria sul quotidiano per cui scrive, una nota avvocatessa matrimoniale divorzista ha sceneggiato la storia di un divorzio ricalcandola su quella del divorzio di tra sua figlia e un noto attore. Ne è venuto fuori un pieno che ha addirittura Vittorio Feltri ha fatto una lettera di scagionamento, è tutta fiction, però si vede benissimo, però, che si trattava di Raul Bova, diciamo che elementi di somiglianza tra il reale e la fiction ce n'erano molti, e soprattutto scritto da tua suocera, che è anche un avvocato divorzista, insomma la cosa aveva un'altra volta uno ci pensa mille volte prima di sposare la figlia di un avvocato divorzista, perché è chiaro, e poi si becca questo. C'è un'ascoltatrice che però mi sembra che sia caduta. Sì, è caduta, è peccato. Era Maria, adesso vediamo se la ribecchiamo. Allora, Gian Ettore Gassani, sui limiti, diciamo, della legalità nel compiere queste azioni, ha citato qualche esempio Marianna, pubblicare ex sms, mail private, come ha fatto d'altronde però la signora Hollande, che lo dice, mi manda sms tanti al giorno. Non si può, naturalmente. No, non si può rivelare il contenuto di comunicazioni private, neanche di fotografie, tantomeno se sono fotografie, diciamo, di contenuto hard. Non si possono riferire fatti personali, attribuire a fatti personali, intimi, che riguardano la sfera assolutamente riservata della vita dell'altro. Quindi la famosa accusa alla microfallia non potrebbe essere usata come arma di sputtanamento, non si può dire. Beh, assolutamente no. Questo, perché poi nel fa tirare il sospiro di sollievo a tanti ascoltatori in questo momento. No, insomma, io ripeto, non entro nel merito di quella famosa lettera di una mia carissima amica collega, e dico semplicemente. Ma lei ha detto che era fiction, quindi alla fine vale la sua parola. Meglio ancora. Ma voglio dire, è chiaro che ci sono dei limiti, quindi non solo morali, ma ci sono limiti di carattere penale molto, molto, molto importanti. Quasi sempre vengono violati. poche volte vengono denunciati, e troppe volte però succede che la procura poi eventualmente archivia, magari dopo la denuncia si tende a giustificare il comportamento con il dolore. Insomma, io credo che invece da questo punto di vista noi dobbiamo acquisire un po' la mentalità degli anglosassoni, cioè la vita privata, la sfera privata deve essere sacra, ma veramente. Ecco un esempio che ti sarà utile, Gianetto. Maria, buongiorno. Buongiorno. Oh, finalmente, allora, una che ha avuto il coraggio di tirare fuori i panni sporchi. Racconti la sua storia. Ma sempre. Guarda, sarò breve perché c'è veramente poco tempo, la mia storia non basterebbe un secolo. Però il succo, proprio alla fine del discorso, è che io, da sputtanata, sono passata poi come la carnefice. Ma spieghi sputtanata, perché chi l'ha sputtanata? Eravamo conviventi, io mi sono anche fatta, io ho vissuto nel garage di casa mia per un mese. Perché? Quando il signore si porta, perché questo signore ha cambiato la serratura e c'era tutto il popolo contro. E io quello che volevo rispondere. Quindi, scusi, la premessa è importante. Lei stava con un uomo, avete litigato, lui le ha tolto la chiave di casa e le ha dormito in garage. No, non abbiamo litigato, era un po' particolare. Allora, qui ci sono denunce c'erano denunce per stalking a non finire, ok? Presente il famoso fascicolo alto. Sì, sì, 100, però se stavate insieme, okay. Vabbè. Ecco, no, guardi, non funziona così. Io sono stata forse, anzi, mi avevano anche fatto i complimenti per essere stata la prima denuncia di stalking. Sì, ma allora lei come ha messo in atto lo sputtanamento, allora, dopo questa vicenda difficile? Io non ho messo in atto, sono stata sputtanata e sono, no, io volevo rispondere a quel signore che stava parlando anche adesso, sì, che non so se è un avvocato, Gianetto Cassani, sì. Benissimo, che ha sostenuto, cioè, che per forza, quando uno viene sputtanato, viene tradito in qualche modo, che non esiste solo quello. Tradito una cosa, sputtanato un'altra. Vabbè, è sempre comunque un attimino, vabbè. Punti di vabbè, lei la sta tirando troppo per le lunghe, Maria, non c'è niente da raccontare. Eleonora. Ah, buongiorno, sono Eleonora De Luca. Dicevo, a me mi è successo questa cosa di ex marito che addirittura mi portava la sua compagna, me la portava in casa quando facevo il turno in ospedale, sono infermiera in pensione. Sì. Tutto lì. E poi è successo un sacco di altre cose, cioè, addirittura io sono venuta dalla Scozia e mi trovo qui sola con due figli e lui è sparito per un anno e tutte queste cose. Faccio meglio a stare in Scozia, tutto sommato. Sì, sì. Ma quindi lei però non è una storia, lei lo sta sputtanando adesso, questa sta approfittando della mia trasmissione per sputtanare. Cioè lei quando faceva il turno all'ospedale lui portava un'altra infermiera a casa? No, l'infermiera no, la sua donna, me lo portava in casa, cioè i figli sempre piccoli e lui ha fatto... E giaceva nel vostro sacro talamo coniugale con l'altra infermiera? No, non era l'infermiera, era la sua donna, insomma. E lei come ha fatto a scoprire tracce di questa cosa? Perché lui ha detto che partiva per lavoro e è partito e era sparito per un anno. Era sì, ma quando portava a casa l'altra, lei come ha fatto a saperlo? L'ho saputo dopo un bel po'. E chi gliel'ha detto? Da praticamente dal momento che è sparito, perché sapevo che dopo avevo questa donna. Comunque anche questa è un'altra storia, di sputtanamento non si è parlato. Chi lo fa evidentemente non lo dice, non mette le mani avanti, non scopre le sue carte, ma sicuramente tanti lo fanno e tanti seguiranno poi l'esempio della ex signora Hollande, anche se non avranno a disposizione una casa editrice probabilmente troveranno il mezzo, con sistemi in paraticce casalinghi, di fare una brava, sana, deleteria e finale opera di sputtanamento. Grazie Gassani, grazie Marianna Aprile, a domani.